faccio il desiderio, vivendo nell'attesa, lo sguardo sulla porta, dai fammi una sorpresa. Nessuno di noi poteva sospettarlo, siamo poli opposti, i nostri cuori uno spettacolo. E stringimi forte, io voglio sicurezza, fermarmi in un abbraccio nella mia fortezza, mentre mi allontani da quella solitudine. La testa sul tuo petto diventa un'abitudine, abbracciando ogni momento che sa di te, quel tigrotto nell'assenza diventa complice. Ora promettimi che ci sarai per me, di quell'abbraccio Sara potrebbe viverne. Abbracciami, amami, fammi sentire che ci sei, dai, chiamami a gran voce, come il tuo cuore quando siamo insieme. Ho bisogno di un abbraccio, ti voglio bene. Abbracciami, abbracciami, amami, amami, dai, chiamami, fammi sentire che ci sei. Proteggono chi ami, mentre sviluppa le ali, le allungo verso te, mostrandoti un binario che ti porterà al mio cuore, un posto straordinario. Perché vederti felice vale tutto il prezzo del biglietto, andate e ritorno in questo viaggio stringendoti al petto. E sebbene questo resti solo retorica, ti stringo a me, anche se sei una bomba atomica. Viaggia tra le mie braccia, ti porto sulla spiaggia dove c'è il sole che ti bacia e ti abbraccia, come fai te con il mio cuore che fa beatbox. Ti faccio freestyle dicendoti ci sono e ci sarò. Abbracciami, amami, fammi sentire che ci sei, dai, chiamami a gran voce, come il tuo cuore quando siamo insieme. Ho bisogno di un abbraccio, ti voglio bene. Abbracciami, abbracciami.